Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro che parla dell'Italia, parla delle prospettive dell'Italia, si intitola Il riscatto, l'Italia e l'industria internazionale. Gli autori sono Nani Beccalifarco e Antonio Calabro, che andiamo con noi questa sera. Buonasera, ingegner Beccalifarco. Buonasera. Ingegner Carlifarco è responsabile della General Electric per le sue attività, diciamo, dell'emisfero nord del mondo, esclusi gli Stati Uniti, quindi l'Europa, la Russia, il Giappone, e ha una lunga esperienza tutta vissuta all'interno di questa grande multinazionale, che è una delle più grandi multinazionali molto diversificate a livello mondiale. Antonio Calabro, buonasera Calabro. Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Già collega, vice direttore del Sole 24 Ore, attualmente responsabile, Senior Vice President per la cultura della Pirelli, direttore della Fondazione Pirelli, e segue con molta attenzione tutti i problemi legati alla cultura e all'industria. Quindi un libro che parla dell'Italia, un libro che parla delle prospettive e dei problemi dell'Italia, i problemi sono anche opportunità. Allora, come è venuta l'idea di questo libro? Perché parlare delle opportunità ed è un possibile riscatto, come il titolo di questo libro? Lo chiediamo per primo all'ingegner Beccalifarco. Ma guardi, è cominciato tutto con una discussione all'Università Bocconi. Parlavamo della situazione italiana del momento, in cui parlavamo delle opportunità e facevamo un paragone su quello che succede in Italia e sulla mia esperienza al di fuori dell'Italia, anche mettendo l'accento particolarmente su quelle imprese in Italia che nell'arco del periodo di tempo, diciamo degli ultimi 15 anni, sono riuscite a fiorire. E appunto facevo l'esempio della nostra acquisizione del nuovo Pignone, che oggi si chiama GE Oil & Gas, che è un'acquisizione che abbiamo completato nel 1994, abbiamo preso una società che aveva un fatturato totale di circa 900 milioni di dollari, e oggi, l'anno scorso, nel 2011, ha fatturato 12 miliardi di dollari. Era una società che nel 1994 aveva praticamente un solo grosso cliente ed era la Gazprom in Russia, e oggi c'è una differenziazione di clienti che vanno dalla Petrobras in Brasile al Canada, insomma in praticamente tutto il mondo. E quindi dimostrando che quando si associa la capacità e il talento degli italiani e alcuni elementi di tecnologia degli italiani insieme con un'organizzazione che abbia dei sistemi e dei processi che sono ben precisi, si riesce a creare un'entità di successo. E così è venuto in mente questo concetto. Poi Antonio e io ci siamo trovati, molto interessante il fatto che Antonio e io abbiamo praticamente la stessa età e quindi abbiamo visto il fenomeno Italia e l'evoluzione dell'Italia praticamente durante gli stessi tempi, lui da un punto di vista italiano, io da un punto di vista più dall'esterno. E abbiamo fatto varie conversazioni, varie discussioni, e poi Antonio si è messo a scrivere, perché io non mi azzarderei mai a scrivere in italiano, non essendo una delle mie grandi. Questo è un compito dei giornalisti, lasciamolo un po' anche ai giornalisti, quindi. No, ma non è solo giornalista, Antonio è un autore, io lo definisco, è un grande autore e ha fatto un lavoro ottimo rendendo certo queste idee che avevamo discusso, rendendole in un modo molto molto piacevole, molto colto e molto ben fatto. Diciamo. Anche perché Antonio Calabro aveva delle basi molto solide, sia per la sua esperienza al Sole 24 Ore, sia perché aveva scritto un libro come Orgoglio Industriale, che già alcuni anni fa delineavano appunto i punti di forza dell'Italia. Non è un caso che uno dei capitoli di questo nuovo libro, Il riscatto, sia il catalogo dei successi. In fondo l'Italia può essere vista in due modi, le medie non rappresentano l'Italia, c'è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, ci sono industrie che purtroppo vanno male, ci sono industrie di successo anche a partecipazione estera che fanno leva sui punti di forza dell'Italia. Valorizzare questi punti di forza non è facile, ma è indispensabile. Antonio Calabro. Sì, il ragionamento fatto con l'ingegner Beccalifarco in lunghe conversazioni, poi i libri si scrivono abbastanza da soli, è stato questo: l'Italia ha delle straordinarie potenzialità, vanno valorizzate. L'Italia ha dei punti di debolezza. Se si riesce a risolvere i punti di debolezza con delle riforme opportune, allora lo sviluppo del nostro paese può essere accelerato. I punti di forza li ha già detti Nani: creatività, intelligenza, flessibilità, attenzione, innovazione. Noi siamo un paese straordinario che sa trasformare le sue competenze storiche attuali in manifattura ad alto livello e in modo molto moderno, e in ricerca anche di qualità. I punti di debolezza: burocrazia, corruzione, intrigo fiscale, disattenzione per le infrastrutture, disattenzione per i processi formativi, scarso investimento in ricerca, le imprese lo fanno, la mano pubblica lo fa molto meno, ma anche scarsa flessibilità del mercato del lavoro, che non è l'elemento più importante. Noi abbiamo degli investimenti esteri eccellenti, dovremmo averne molti di più. Il ragionamento fatto dall'ingegner Beccalifalco e da me è come si può muovere il sistema paese, innanzitutto con scelte politiche opportune, per valorizzare quello che abbiamo e attrarre investimenti. Leggo sul Sole 24 Ore più volte di imprese italiane che vanno all'estero, e non perché lì ci sia un costo del lavoro minore, ma perché metti meno tempo a ottenere i permessi e le autorizzazioni, paghi meno il fisco, hai soprattutto un sistema fiscale più semplice e hai un ambiente favorevole all'impresa. Dobbiamo stare attenti a non perdere queste opportunità. Ecco, una grande opportunità. Nel libro si delineano anche i problemi, è una frase che purtroppo ricorre: l'Italia fanalino di coda su molti punti, i tempi della giustizia, i costi della burocrazia, la partecipazione al lavoro. Allora, ingegner Beccalifalco, lei che ha probabilmente, spero, il cuore in Italia e la mente, l'azione in Germania, che cosa, certamente non ci sono soluzioni facili, problemi difficili, ma da dove cominciare a risolvere questi grossi problemi italiani, che sono problemi che frenano indubbiamente un paese come l'Italia che avrebbe grandi potenzialità? Ingegner Beccalifalco. Ma guardi, il grosso problema degli ultimi 10 anni, e lo si legge nel libro, è dovuto al fatto che il paese non è cresciuto, non ha avuto crescita, anzi diciamo che è stato addirittura un periodo di declino. Se lo confrontiamo con gli altri paesi dell'Europa, siamo decisamente il fanalino di coda. Quindi dobbiamo cercare di ristabilire la crescita, ristimolare la crescita, però dobbiamo stare attenti perché prima di tutto, e qui il mio applauso va al governo Monti che sta facendo veramente bene, bisogna cercare di fare un certo numero di riforme che ci permettano di avere una ripresa che sia su base solida, che sia sustainable, parlo in inglese, che possa essere mantenuta. Perché se cerchiamo di lanciare programmi che favoriscono la crescita su una base che è debole, diciamo così, su una base che non è ben strutturata, allora questi programmi non avranno futuro, saranno solamente soldi che vengono praticamente buttati via. Quindi sono d'accordo col governo Monti nel fatto che prima dobbiamo cercare di ristabilire, di ricostruire la nostra base, ristabilire la fiducia dell'Italia sul piano internazionale, perché non dimentichiamo, ed è anche trattato nel libro, che una gran parte della possibilità di crescita è offerta dagli investimenti che vengono dall'estero. Se noi guardiamo anche come investimenti dall'estero, l'Italia purtroppo non ha una buona performance, quindi la fiducia è estremamente importante e devo dire sinceramente che sia per questioni personali della credibilità che Mario Monti ha in Europa, dovuto al grande lavoro che ha fatto come commissario, sia anche per alcune delle azioni che ha cominciato, stiamo riguadagnando, e questo glielo posso dire io, vivendo all'estero e vedendo come sono le cose all'estero, stiamo riguadagnando un certo tipo di fiducia che speriamo nel futuro ci permetta di attrarre questi capitali che sono estremamente importanti. Indubbiamente fiducia e credibilità sono due leve su cui agire per poter ristabilire un meccanismo di crescita in Italia. Ci avviamo alla conclusione, vorrei credere ad Antonio Calabro di spendere una parola anche per la sua grande passione che è la cultura, impresa e cultura è anche il primo capitolo del libro. C'è bisogno di cultura industriale in Italia, Calabro. C'è bisogno di cultura industriale, c'è bisogno di cultura del merito, di cultura del mercato e della competizione. E noi siamo convinti, e lo scriviamo in questo libro, che la relazione fra il sistema industriale italiano e le attività che vengono dai mercati internazionali possono stimolare questo tipo di cultura, che è una cultura della produzione, della ricerca, dell'innovazione, anche della responsabilità. Tutti elementi che abbiamo in Italia e che vanno sicuramente molto potenziati nel confronto internazionale. E un'ultima parola per l'ingegner Beccalifalco, chi è all'estero? Ci sono molti giovani italiani all'estero, cosa possiamo dire per convincerli a tornare in Italia? Le posso dire una cosa, gli italiani che vivono all'estero molte volte hanno un senso di italianità che è molto più forte degli italiani che vivono in Italia. L'attaccamento alla madrepatria è molto forte e quindi se si riuscisse a creare un ambiente che favorisce lo sviluppo, la crescita delle persone, che desse le opportunità che le società al di fuori dell'Italia danno, sono convinto che noi avremo un ritorno di italiani che sarebbe impressionante. Prendiamo un esempio, l'esempio della Cina. Se vediamo la Cina, per esempio, ci sono stati molti cinesi che appena le porte si sono aperte, sono migrati negli Stati Uniti, stanno tutti ritornando in Cina perché vedono una grande opportunità a casa loro. Cerchiamo di essere la Cina dell'Europa. Con questa speranza, con questo augurio del fatto di un'Italia che si apra un nuovo rinascimento industriale ed economico, chiudiamo qui. Ringrazio l'ingegnere Nanni Beccali Falco, responsabile della General Electric per l'Europa e l'emisfero nord. Ringrazio Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli e senior vice president della cultura della Pirelli, che sono autori di questo libro edito da Università Bocconi, Il riscatto, l'Italia e l'industria internazionale, un libro di 216 pagine per 16 euro. Così come ringrazio Pietro Lacorte in regia e Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.